9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon 2 novembre, una puntata obbligata come tema, una puntata obbligata come vostro interesse, e quando dico vostro interesse prescindo da quello che possiate anche avere per altri temi, il problema è l'interesse del vostro portafoglio, del vostro risparmio, di ciò che avete fatto nella vita, di ciò che fate, qualunque sia la vostra collocazione nella piramide dei redditi della società italiana. Quando siamo in punti come quello che ieri si è aperto nella parabola italiana, è il caso, secondo me, di misurare i toni, certo, ma anche di usare toni di sincerità, di essere accuminati come rasoi, perché quello che è avvenuto ieri, cioè l'impennarsi di un'intera curva dei rendimenti dei titoli pubblici italiani per qualunque scadenza di debito pubblico sul mercato secondario, il record degli spread sui titoli tedeschi, il rapidissimo deteriorarsi in poche ore della posizione di credibilità italiana dopo l'annuncio a sorpresa del referendum che il premier greco Papandreou terrà con una maggioranza che oramai è risicatissima, e per avere la conferma o meno del consenso degli elettori greci intorno alla terza raffica di sacrifici chiesta in un anno e mezzo alla Grecia stessa. Questo evento certo era una sorpresa, ma quello che non doveva e non poteva essere una sorpresa per classe dirigente serie era che a una qualunque scintilla sfuggita di mano in un processo sempre più complicato a 2 anni dalle elezioni greche, di tentativo di convergenza obbligata e senza sostegno nel medio periodo della convergenza, che la cosa avvenisse immediatamente dopo era esattamente quella che doveva avvenire ed è avvenuta, cioè che finissimo in poche ore su un banco degli accusati in cui siamo da tempo, e lo siamo per questioni oggettive, non per solo per gli errori o per le strategie scelte dai tedeschi e dai francesi, non solo perché ci sono compromessi europei incomprensibili come quello sulle banche adottato dal Consiglio europeo di giovedì, che dà pesi asimmetrici agli attivi delle banche franco-tedesche agevolandole e invece induce quelle italiane a dismettere titoli del debito pubblico proprio mentre da agosto la BCE deve comprarceli e sostenerli, non solo per tutto questo, ma perché ci sono questioni oggettive: il nostro elevatissimo debito pubblico, la nostra bassa crescita da 15 anni, la nostra elevata spesa pubblica e livello di pressione fiscale che non induce certi mercati a credere che un ulteriore aggiustamento sia facile a portata di mano, visto che la politica, quando si tratta di tagliare davvero la spesa, non ci sente, e ha preso 7 punti di minori interessi sul PIL il dividendo dell'euro e li ha tradotti tutti in maggior spesa corrente, e la responsabilità lì si divide in questi anni per chi ha governato di più, e ha governato di più il centrodestra, tanto per essere chiari, che ha fatto l'esatto opposto di quello che ci aveva promesso. E agli ascoltatori che continuano a credere, quando io dico queste cose, che ci siano mene politiche, disegni strategici di Confindustria, della radio, mi dico semplicemente a dire che questi sono i fatti, e se i fatti danno fastidio è perché in troppi mentono sui fatti, questa è la mia opinione, poi ciascuno di voi può trarne le conseguenze politiche che vuole. Ieri la giornata è stata una non sorpresa per quello che avviene purtroppo per l'Italia, oltretutto sapevamo da giorni che c'è un dossier informale aperto sull'Italia al Washington, al Fondo Monetario Internazionale. Perché alcuni chiedono Fondo Monetario Internazionale? Perché per le procedure, appunto, troppo diluite e molto barocche del meccanismo europeo, l'FSF, il Fondo Salva Stati e Salva Banche dell'Europa, non ha i tempi immediati di intervento del Fondo Monetario, a dotazione che anche in caso di leva come quella deliberata a giovedì della settimana scorsa non sono tali da poter indurre nessuno a pensare di sostenere un'eventuale crisi seria di sostenibilità dell'Italia, e il Fondo Monetario ha entrambe le cose. Eppure ieri, quando è avvenuta la cosa, il governo italiano è stato colto di totale sorpresa. Il presidente del Consiglio era in vacanza, metà della sua prima fila della squadra di governo era chi in Cina, chi in India, chi si apprestava per partire per l'Australia come ministro degli esteri. Il ministro Tremonti, sappiamo tutti, essere da settimane e da mesi defilato come se fosse un membro casuale di questo esecutivo, non ha condiviso la lettera al Consiglio europeo, e ieri sera, nel giro di poche ore, sia tutte le associazioni di impresa italiane, quelle che da settembre hanno preso a coordinarsi tutti i giorni per vedere come prendere posizioni comuni, cioè Confindustria, l'editore di questa radio, insieme all'ABI, alle banche, l'ANIA, le assicurazioni, le COP, di tutti i colori e le ascrizioni culturali, e il sistema di commercio e artigianato altre 5 sigle in rete Imprese Italia, già a metà pomeriggio erano d'accordo con il Quirinale, che monitorava la situazione, di dover chiedere per forza al governo un Consiglio dei Ministri subito, almeno per tentare di adottare un po' di misure, di quelle messe solo sulla carta come promesse giovedì al Consiglio Europeo. Ecco perché, di fronte al fatto che il governo faceva capire di non avere testi in mano, di non essere pronto a nulla, che il ministro del tesoro non collaborava, eccetera eccetera, e sono arrivate le prese di posizione che, appena a mercati chiusi, prima hanno visto l'intero fronte delle imprese chiedere provvedimenti immediati o un governo che ne trae le conseguenze, cioè va a casa, e in pochissimi minuti dopo il Quirinale, che era al corrente di tutto questo e lo approvava, che ha emanato una nota senza precedenti in cui si chiedono improrogabili provvedimenti e si assicura che oramai il Quirinale considera un proprio dovere, testuali parole, la verifica di quella possibilità, non solo che le misure vengano adottate subito, ma secondo che vengano sostenute da quelle vaste intese dietro le quali poi potete vedere non solo l'interesse del Quirinale a replicare con i suoi interventi le facoltà di una opposizione non filibustering, come già avvenuto a luglio, ma anche qualcosa di diverso per il futuro. Non si tratta di dividersi, ripeto, su giudizi destra-sinistra. Sono il primo ad ammettere che nell'opposizione nessuno mi pare molto prossimo a sostenere ciò che il Fondo Monetario, la BCE, l'Unione Europea ci chiede. Credo che la squadra del Fondo Monetario Internazionale, che monitora l'Italia, sia molto preoccupata anche per questo, perché qui di azzeramento di pensioni di anzianità non ne vuole sentire parlare nessuno, di macrocessioni pubbliche dell'attivo patrimoniale pubblico non ne vuole sentire parlare nessuno, di una disponibilità seria a diminuire ad abbattere il cuneo fiscale subito, anche a fronte di un intervento patrimoniale, come le imprese hanno dichiarato che sono disponibili. Per il momento non si sente parlare nessuno, tutti pensano a una maxi patrimoniale per abbattere il debito pubblico. Ecco, siccome sappiamo che quelle sono le misure che servono di più per recuperare la credibilità, auguri all'Italia, vediamo come vanno i mercati e sentiamo un po' di opinioni, e apriamo naturalmente anche il microfono a voi che ascoltate. Chi sono gli ospiti le cui opinioni si confronteranno per arricchire la vostra capacità interpretativa di quello che avviene? Abbiamo qui in studio Mario Seminerio, economista, portfolio manager in passato per società di gestione italiana internazionale di primo livello, e attualmente fa il portfolio advisor. Richiamo sempre al suo blog, un blog di politica e di economia, si chiama fastidio.net, col PH, fastidio.net. Mario Seminerio è uno di quelli che da anni non intonava la sirena dell'ottimismo, e non è molto facile, perché quando si lavora poi naturalmente nel sistema finanziario della raccolta finanziaria, è chiaro che poi reti, promotori eccetera preferiscono sentir dire al cliente che tutto va bene, ma è un po' complicato poterlo dire quando si è in questa condizione. Grazie a Mario Seminerio, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo collegato con noi Salvatore Bragantini, economista, ex commissario della Consob, scrive sul Corriere della Sera. Buongiorno e grazie a Salvatore Bragantini. Buongiorno a voi. E Tobias Piller, che è il corrispondente della Frankfurter Allgemeine Zeitung in Italia e che è presidente anche della Stampa Estera in Italia. Buongiorno a Tobias Piller. Buongiorno, ma qui sempre come corrispondente di un giornale tedesco, non certamente una voce che può rappresentare 400 giornalisti, sì. Posso chiedere a Tobias Piller, dando un'occhiata alla stampa quotidiana tedesca di stamane, qual è la reazione? Primo alla Grecia, qual è la valutazione della posizione italiana a poche ore dall'inizio del vertice di Cannes? Certamente l'Italia è sempre più in bilico e ci si aspetta che l'Italia reagisca, e ancora non si è sicuro se l'Italia veramente può fare quello che è stato promesso per molti anni e non è stato fatto. Ma dall'altro lato c'è la speranza che, come in tanti altri casi, la crisi anche possa muovere l'Italia. C'è un po' di paura invece che l'Italia possa sognarsi un mondo che si adegua a lei, e questo certamente trova anche riscontro in molti voci che dicono bisogna cambiare l'unione monetaria, bisogna gestire la moneta in modo diverso, e questo in Germania viene visto con grande allarme, perché quello che in questi casi l'Italia chiede è il ritorno a una gestione della moneta come io vedo essere stato nell'Italia degli anni 70, così, una cosa che certamente i tedeschi non avrebbero mai accettato per la fondazione dell'Unione Monetaria. Senti Tobias, Wolfgang Munchau stamattina scrive che in realtà la monetizzazione del debito attraverso la BCE, la Banca Centrale, è praticamente l'unica opzione seria che è rimasta, perché se non si fa così i politici possono dire quello che vogliono, ma in realtà il meccanismo sfugge di mano ed esplode, e a quel punto significa che l'euro non c'è più. La tua opinione, perché poi la chiediamo anche a Bragantini e a Semeraro, perché questo è uno dei punti secondo me più importanti oggi. Se questo dovesse avvenire, certamente la moneta unica e anche così la missione dell'Italia in questa moneta unica sarebbe dopo interpretato dai tedeschi come una fregatura di dimensione storica alla Germania, e con tutte le conseguenze che avrà per il futuro dell'Unione Europea, da un lato. Dall'altro, perché gli italiani sentono sempre i commentatori gloriosi dell'Inghilterra? Se vogliono confrontarsi, forse si confrontino anche in altri parti, non solo in questa trasmissione, con le voci più autorevoli tedeschi. Oh, Holger Stelzner, che insomma non è proprio un non tedesco, un tedesco, sostiene oggi invece che non c'è alternativa, bisogna prendere atto della realtà, i greci sono fuori e l'euro non può che procedere solo con i paesi capaci di stare dentro, che è una visione appunto radicalmente diversa da quella di Wolfgang Munchau. Quanto pensi che in Germania visioni come quelle di Stelzner siano popolari? In realtà, se si facesse un referendum in Germania, vincerebbe una posizione dura come questa, o no? Stelzner è proprio editore e direttore del mio giornale, proprio con il campo dell'economia, e ha picchiato da molti mesi sul governo tedesco, pur essendo così direttore di un giornale liberal conservatore. Non risparmia mai la Merkel, perché vuole una moneta stabile e ha gestito in modo a lungo termine, e dice che se ci sono stati dei problemi, sono stati problemi di debito perché qualcuno non ha gestito le proprie finanze in modo lungimirante o in modo sostenibile, e questo non può essere poi a discapito dei patti e della gestione di una moneta che non può in quel senso fare miracoli. Allora, tra l'altro, una delle cose più singolari che mi ha colpito guardando stamattina presto i giornali internazionali è questa cosa delle Figaro, secondo la quale il governo greco praticamente in queste settimane, in questi ultimi mesi, ha sostituito tutti i capi di stato maggiore delle forze armate, che si credeva fossero avvicendamenti abbastanza ordinari. Nessuno ci ha fatto caso, vista ciò di cui si parla della Grecia, ma in realtà perché temeva un colpo di stato. Rispetto a questo, per dire a che punto siamo con i rischi di sovranità messa in discussione dalla tenuta dell'euro e da ciò che si chiede poi con durezza a paesi come la Grecia di fare per rimettersi in linea. Posso chiedere a Salvatore Bragantini, se dovessimo indicare un'alternativa, insomma, usando questi due grandi giornalisti europei, tra Munchau di oggi che dice monetizziamo il debito attraverso la BCE, oppure Holger Stelzner che ha la testa del desk economico della FAZ, secondo me uno dei più autorevoli e importanti giornali europei, se dovesse scegliere la sua strada e la strada che è anche possibile che l'Italia in queste condizioni possa sostenere, siamo spariti in realtà dagli eurovertici, c'è il direttore franco tedesco e siamo costretti anche a berci parti di accordi come quelle bancarie, che a me appaiono assolutamente indigeribili, ma è evidente che la mancanza di credibilità ci porta a questo. Come la pensa Bragantini? Vede, io penso che ci siamo ficcati in una situazione nella quale ogni possibile soluzione sembra impossibile, eppure qualcuna di queste soluzioni dovrà funzionare. Voglio però ricordare prima, perché questo va pure detto, che la crisi greca è scoppiata a fine aprile del 2010, quindi sono passati 18 mesi da quando è scoppiata la crisi greca, e non ci voleva un indovino per sapere che, come ha detto prima Oscar Giannino, una qualche increspatura sul mare, una qualche scintilla avrebbe potuto portarci in questa situazione. Ebbene, per questi 18 mesi abbiamo continuato a sentirci dire che noi avevamo i conti migliori di tutti, che la ricchezza privata italiana non ha uguali. Bene, se io fossi un tedesco direi: cari ricchi italiani, avete una ricchezza senza uguali, usatela, pagatevi il vostro debito. Questa è la situazione nella quale ci siamo messi. Ora, venendo alla sua domanda, sentir dire dal nostro primo ministro che l'euro è una moneta strana, veramente credo che poi quando lui parla con la Merkel, lo dice che ha parlato con la Merkel e che dice che gli assicura che farà tutto quello che deve fare, immagino che risolini si farà la Angela Merkel. Ma detto questo, venendo alla sua domanda, io credo che siamo in una situazione nella quale ogni situazione, ogni soluzione possibile appare impossibile, eppure qualcuna ha da esserci. L'unione fiscale è diciamo remotissima, anche perché immagino che i tedeschi diranno: ma questo primo ministro Berlusconi lo hanno eletto gli italiani o ha fatto un colpo di Stato? Quindi è per questo che io credo che il passaggio davanti al quale siamo oggi sia un governo di unità nazionale, al quale chiaramente allude la nota di Napolitano di ieri, ma questo ancora si tiene sul fronte interno. La sua domanda, credo anch'io che la soluzione più, cioè l'unica che ha la potenza di fuoco è la banca centrale, però pensare che la banca centrale possa fare da diciamo fornitore di risorse illimitatamente è una cosa semplicemente fuori di senno, ed è impossibile pensare che lo faccia Mario Draghi, che è by the way un italiano. Quindi non si può permettere il lusso di diciamo buttare alle ortiche la reputazione della BCE, e quindi questo non si può fare. Altre soluzioni non si possono fare anch'esse, ma non si può nemmeno pensare che si faccia l'euro dei forti, perché anche questa è un'assurdità. Questa è una cosa che non esiste. Nessuno può pensare di sopravvivere alla spaccatura dell'euro. A parte che non è previsto dai trattati, ma questo è irrilevante perché tante cose non previste dai trattati avvengono nella vita. Pensare che l'euro possa essere smontato disordinatamente, così come si prende un Lego e si mettono i pezzettini a posto nella scatola, è semplicemente folle, ed è nell'interesse di tutti evitare che questo avvenga. Quindi, non lo so, forse può essere che alla fine abbia ragione Mnuchin, ma questo potrebbe avvenire solo dopo provvedimenti serissimi come una patrimoniale forte in Italia, per esempio, che abbatta il debito sotto il 100%. Forse a questo punto una Merkel o una Steinbrück o chi altro al posto suo, non lo so, potrebbe andare dall'elettorato tedesco e dire: beh, questi nostri cuginetti sono un po' discoli, però stanno facendo i compiti. Finché continuiamo a andare così, mai. Avete capito, Bragantini dice una patrimoniale di 20 punti di PIL, quindi insomma una patrimoniale da 300 miliardi di euro. Io penso che lo Stato dovrebbe abbattere il suo patrimonio concessioni con un grande fondo in cui si mette due terzi dei 500 miliardi che l'attivo patrimoniale del Tesoro ancora un mese fa ci ha confermato essere cedibile da mettere a reddito, fare un grande fondo con una dotazione patrimoniale di quell'ordine di grandezza, in maniera tale che a prescindere dai tempi di privatizzazione, un veicolo privato da mettere nelle mani di soggetti privati, un fondo immobiliare che a quel punto possa emettere titoli, ma che abbia come conseguenza obbligata che quei 300 miliardi siano ceduti, che consenta anche uno swap volontario, non coatto, ai detentori di titoli a debito pubblico italiano in cambio di obbligazioni di quel fondo. Ma questa resta la mia personale opinione rispetto alla via della patrimoniale. O si sostiene in termini straordinari e pazzeschi il conto economico dello Stato, come siamo costretti a fare, siamo al berreco della pressione fiscale, o si fa la via patrimoniale ma con un abbattimento per far crescere più il paese la pressione fiscale, con un equilibrio dei conti a un livello più basso della spesa. Fare entrambe le cose mi sembra un esercizio terribile, però questa resta la mia opinione. Quella di Seminerio invece, di fronte alla monetizzazione BCE oppure l'Europa dei forti, e quindi insomma il fatto che vada in area edificio, a oggi come valuta la doppia, l'alternativa vera europea, e come valuta la posizione italiana? Ma devo dire che io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto il dottor Bragantini poco fa, nel senso occorre intendersi sulle definizioni e sui meccanismi. Nessuno sta chiedendo alla Banca Centrale Europea di mettersi a monetizzare a piedi lista e di comprare qualsiasi emissione di titoli di Stato italiani, non solo italiani, senza sterilizzazione. Prima di tutto perché è vietato dai trattati, e poi perché un'iniziativa di questo titolo sarebbe palesemente folle. Però tra il dire non ci deve comunque essere nessuna monetizzazione, che poi non si parlerebbe di monetizzazione ma di una cosa un po' più complessa, e dire bisogna rilanciare, come fanno ad esempio i tedeschi, come da tempo, con una qualche ragione, ma probabilmente non è la ricetta unica, bisogna rilanciare la competitività. La competitività non è una cosa che si rilancia, diciamo, con un tratto di penna, però io non vorrei che questa mia espressione venisse assimilata a quelle di fonte governativa. perché noi abbiamo avuto giustamente delle aspettative messianiche su questo decreto sviluppo da alcuni mesi a questa parte, da alcuni anni a questa parte. Poi ogni volta il decreto viene rinviato e possiamo intuire il motivo, cioè ci sono queste paralisi ultracorporative che sono la metastasi di questo paese e che questo governo rappresenta in maniera assolutamente plastica, perché praticamente è il capolinea della corporativizzazione di un paese. Quando dico questo governo intendo questo governo, ma anche l'epitome di questa classe politica, perché ho dei seri dubbi che questa opposizione a ruoli invertiti avrebbe fatto meglio, anzi forse sarebbe riuscita anche a fare peggio, cosa che sembrava praticamente impossibile. Serve sicuramente, serviva una attività estremamente seria di lungo termine dall'inizio di questa legislatura e con elevata probabilità anche delle precedenti due, per realizzare delle riforme di struttura, delle liberalizzazioni, della svendita di patrimonio o della valorizzazione, perché io non sto dicendo che si debba comunque vendere e svendere il patrimonio pubblico perché è cosa buona e giusta, perché diversamente poi ci troviamo a sostituire monopoli pubblici con monopoli privati, come già avvenuto più di una decina di anni fa, come sappiamo bene come è andata a finire. Tutto ciò, prego. Ah, ok. Tutto ciò premesso, se noi riusciremo a dare una sorta di riordino generale al paese, potremo sicuramente avere delle motivazioni più credibili per presentarci in Europa, ammesso che qualcuno vada in Europa, perché allo stato attuale mi pare che ci sia solo la segreteria telefonica per quanto riguarda il governo italiano. Qualcuno vada in Europa e dica: noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, adesso vogliamo una contropartita. La contropartita deriva dal fatto, in che cosa è una moneta anomala l'euro? Nel fatto che i paesi dell'eurozona, i 17 paesi dell'eurozona, non sono emittenti di una valuta ma sono suoi utilizzatori, per cui la Banca Centrale Europea è remota dai paesi che compongono l'eurozona, e credo che questa sia una ovvietà difficilmente confutabile. Quindi noi prima avremmo dovuto fare i compiti a casa e dopodiché avremmo avuto credibilità per presentarci in Europa e chiedere anche una evoluzione dei trattati. Io temo che ci sia un altissimo, quello che si chiama sui mercati execution risk, cioè qualunque cosa si vada a fare, si vada a toccare, ci sono tali e tante parti mobili che si può crollare in qualunque momento, e l'iniziativa di ieri di Papandreou, che è altamente spregiudicata e altamente rischiosa, lo dimostra. Ma quello che è certo è che restare nello status quo istituzionale, cioè di una realtà in cui abbiamo una banca centrale che è remota dai paesi che adottano la valuta emessa da questa banca centrale, ed avere tutta una serie di vertici nelle quali ci sono questi vincoli innumerevoli, sia assolutamente insostenibile. Per cui lo status quo è la via sicura per l'inferno, e mi pare che la stiamo già percorrendo in questi giorni, in queste settimane. E purtroppo sì. Ora andiamo in pubblicità, poi ripartiamo da una domanda a Tobias Piller su come i tedeschi vedono questa cosa su cui i giornali italiani non riescono più a dire una parola. Cioè, noi abbiamo un presidente del Consiglio, un ministro dell'economia che non si vedono, non si sentono, non si parlano, non cooperano su testi, mentre l'Europa e i vertici istituzionali, cioè chiedono provvedimenti. Un sottinteso molto forte nel dibattito italiano è che il ministro dell'economia in realtà stia tentando di convincere da mesi il presidente del Consiglio a fare un passo indietro, convinto che però i tedeschi, Wolfgang Schäuble in particolare, il ministro dell'economia tedesco, sostengano lui come pilastro di credibilità italiana, e quindi in questo gioco in cui conta poco la sovranità nazionale ma conta più quella europea, Tremonti avrebbe questa specie di capitale di garanzia germanico. Eccoci tornati in studio. E allora, Tobias Piller, è vero che i tedeschi hanno fatto una scelta non dichiarata da mesi? È ragionevole crederlo, non è vero, non devi dare tu una risposta ufficiale, ma dico, è ragionevole credere che si dica Berlusconi no, ma tutto sommato Giulio Tremonti sì? Non penso, non, io penso che ci sono tanti qua che si vantano di questo e di quel sostegno, è tutto favore in Italia, e certamente possono essere simpatie lì e là, ma si vede che il governo tedesco in fondo cerca di essere pragmatico, di sostenere il contatto col Presidente della Repubblica quando lui sembra quello che tira fuori la frusta per portare l'Italia verso delle riforme, e questo anche non è un miracolo. Lui si è fatto consigliare da Draghi, e Draghi anche ha da sempre indicato una strada. In quel senso il problema esiste, ma il problema va al di là delle competenze, mi sembra, del Ministero del Tesoro. E ricordo che Tremonti ha dato un gran servizio all'Italia cercando di almeno di far quadrare i conti, così l'Italia a breve non è in pericolo, ma deve adesso far vedere che è in grado di crescere, e per questo ci vuole qualcuno che abbia i riflessi di economista, e questo adesso questo ruolo adesso è stato dato al ministro Brunetta, che proprio è un economista di spicco, e in quel senso mi sembra la divisione dei ruoli è andato relativamente bene. Va bene, vedremo. Qui ci sono commenti diversi intorno alla statura di economista di Brunetta. Qualche domanda dei nostri ascoltatori. Pasquale da Treviso, prego Pasquale. Buongiorno. Mi scusi, è una domanda molto semplice, signor Giannino. Io ascolto sempre la sua trasmissione, sì, e purtroppo noto una certa negatività nei suoi commenti nell'ultimo periodo, per carità, giustissimi. Le volevo fare questa semplice domanda. Ieri alle 18 io ascoltavo la borsa chiusura, meno 6,8, un disastro, stiamo per morire, stanno per comprarci. Però a Canoghera, il casinò di Venezia, c'era la coda per fare. Come mai? Non riesco a capire. L'autostrada che scende da Trieste, la fatto la 27, un fiume di macchine, per carità, molti rientravano dal ponte, ma io non riesco a vedere proprio tutta questa negatività. Pasquale, guarda, ti rispondo seccamente, perché credo che abbiamo scelto esattamente la tua domanda, perché sono in tanti a dire così. Ci sono diverse possibili risposte. Posso dirti che il compito di chi interpreta i mercati è quello di dare i segnali e le interpretazioni, con tutta la fallibilità di ciascuno di noi, a chi invece giustamente nei giorni di vacanza sta in vacanza e non si rende conto della possibilità che intere classi di asset, di risparmio e patrimonio possono decrescere di valore di decine di punti se avviene un evento traumatico come quello di cui stiamo parlando. E per questo chiediamo alla politica di intervenire. E questa risposta, la sintesi è che c'è chi sa di più e c'è chi sa di meno, anche se è brutale che la dica così. Ok, secondo, che per molti che non stanno nel mercato finanziario ci sia l'effetto di credere che tanto sono cose che non le riguardano, anche questo è un errore. Se poi sottinteso è sei diventato uno che non capisce che bisogna sostenere una parte politica sull'altra, lo respingo al mittente, perché se no, la politica si giudica su quello che fa o non fa, e quando non fa come in questi anni, qualunque cosa abbia detto bisogna, per chi fa il mio mestiere, tentare di spiegare a casa che magari cambiare idea è una cosa giusta. Ecco, queste sono le mie tre possibili risposte in pillole. Quello che non sono disposto a consentire che si dica è che non sta succedendo niente e che c'è una specie di cospirazione di matti che vi fa credere che bisogna essere pessimisti, perché tutto sommato si continua a spendere, a spandere. Questa roba, per esempio, giornali come Libero, giornalisti come Vittorio Feltri l'hanno scritta per anni, e naturalmente poi vai a raccontare a un paio di milioni di italiani che ci hanno rimesso il posto, sono stati distolti dal cercarlo e così via. Le crisi finanziarie ed economiche di questi anni sono epocali, e chi crede di poter fare fischiettate è libero di farlo, ma da parte mia avrà solo una risata. Fabio da Roma. Buongiorno a tutti. Dica. Io volevo dire solamente una premessa rispetto alle eventuali critiche o pseudocritiche che si stanno facendo verso la Francia, verso la Germania, circa il loro comportamento. Queste osservazioni si potranno anche fare, però prima secondo me bisogna fare un esame di coscienza, sì, come Italia. Nel senso, un dato molto banale, io ricordo che per entrare nell'euro bisogna rispettare tre parametri, cioè il deficit su PIL, l'inflazione, e il terzo è il debito su PIL, che doveva essere a 60 o tendere a 60. Adesso io sfido chiunque a guardare il grafico del debito su PIL dell'Italia a dire: ecco, questo è un grafico che tende al valore 60. Ci sono stati anni in cui da 120 si tentava di riscendere verso 100, sì, poi siamo risaliti certo, verso 100. È un grafico che per bene che vada. No, chiarissimo. Quindi l'Italia è la prima a non aver adempiuto alle sue diciamo, e questo riguarda il passato. Sue, sì. E questo è il peccato originale. Se viceversa il grafico fosse andato veramente verso 60, forse non stavamo così. Grazie Fabio. Sergio dalla provincia di Pavia. Sergio, buongiorno dottor Giannino. Sì, soltanto velocemente per far rilevare che in realtà il prossimo anno scadono 300 miliardi di debito pubblico dell'Italia, e quindi diciamo che sì, il problema oltre che 2011 sono 2012, certo, qui c'è un grandissimo problema. Un altro suggerimento velocissimo che davo, secondo me bisognava non levare, cioè questo punto qua l'unica cosa che potrebbe fare il governo Berlusconi con conseguenze ovvie politiche è reintrodurre l'ICI con recupero degli anni che non sono stati pagati. Evidentemente facendo questo annuncio dovrebbe andare poi a casa immediatamente il governo, perché dopo le prove che ha dato. E poi un'altra cosa velocissima, le 30 aziende italiane quotate sul FTSE MIB praticamente devono l'Stato italiano, all'erario italiano accertato di evasione, 5 miliardi in totale. E quindi prima di fare aumenti di capitale dovrebbero quantomeno rimettersi in pari con l'erario, visto che chiedono i soldi agli italiani, in realtà ne devono 5 nel complesso allo Stato italiano. Ma Sergio, non lo so. Ida da Torino. Buongiorno, io volevo far presente una cosa, non so se ieri avete sentito il professor Prodi a Focus Economia. Sì, c'ero anch'io in trasmissione, sì. Ecco, quello che ha detto. Sì. A me sembra, io non sono dell'idea del professor Prodi, però in questo caso ho apprezzato la sua lealtà, perché come i suoi ex colleghi continuano a tirare colpi bassi al governo e specialmente a Berlusconi, mi sembra che abbia fatto un'analisi ottima. Poi sono andata ancora a rileggere poi alla sera su Televideo, ed effettivamente non mi sembra che la Germania e la Francia si stiano comportando bene, ma si comportano da padroni dell'Europa, cosa che invece non sono colleghi dell'Europa. Ecco, e non vedo perché nessuno intervenga per farli per mettere uno stop a questa loro chiamiamola arroganza. Ida, sì, però traduciamo, torniamo subito su uno dei punti sui quali io stesso con una domanda ho fatto dire a Prodi la parte che le è piaciuta, per così dire, quella in cui criticava la Merkel e Sarkozy, perché questa si riferiva alla domanda che noi gli abbiamo fatto, gli abbiamo chiesto: ma lei l'accordo bancario relativo al diverso peso degli asset liquidi che sono nei portafogli delle banche lo avrebbe accolto oppure no a nome dell'Italia la settimana scorsa? Lui mi ha detto no, e su questo i tedeschi e i francesi stanno sbagliando moltissimo, lo fanno nei loro interessi, le loro banche. Che pensa Bragantini di questa parte dell'accordo bancario, che è un invito alle banche italiane a dismettere titoli del debito pubblico italiano, in realtà implicitamente? Vede, io penso che bisogna distinguere fra causa ed effetto. L'effetto può essere quello, ma la causa, torniamo sempre a bomba, è la nostra inaffidabilità. Se il debito pubblico italiano perde il valore e questi titoli sono nel portafoglio delle banche, la European Banking Authority fa purtroppo solo il suo dovere, sono altri che non lo fanno. Torniamo al discorso di prima, noi dobbiamo metterci in testa che siamo come in una guerra, cioè quello che sta accadendo adesso è qualcosa che trasformerà il continente europeo come lo potrebbe aver trasformato una guerra. Siamo in una situazione fortunata nella quale questi grandi eventi, anziché accadere con milioni di morti, accadono con miliardi di perdite sui patrimoni. È molto meglio questo che i morti, no? Certamente, però non bisogna spiegare alla gente che si illude, perché va al casino che comunque i deprezzamenti per miliardi di patrimoni e stock ci sono, arrivano. Ecco. Certamente, ma lei avrebbe potuto dire prima all'ascoltatore che anche sul Titanic ballavano, però poi sono morti. A me non piace mai parlare di morte, però io continuo a rimanere della mia idea che la valutazione, diciamo così, asimmetrica per tipo di asset liquidi, quella è una cosa inaccettabile tecnicamente. Non ne faccio una questione di difesa del debito pubblico italiano, in questo secondo me Bragantini ha perfettamente ragione. Dico semplicemente che non abbiamo evidentemente imparato niente da 4 anni fa, da 3 anni fa, da ciò che poi indusse a fare pesi diversi per capacità, o meglio incapacità conclamata in poco tempo di dare un rischio valutabile sul mercato e traducibile in un prezzo a intere classi di asset, che è stato il motivo per cui poi con Lehman è successo quello che è successo. Seminerio, che pensa su questo? Io credo che la European Banking Authority farà anche il proprio dovere, però a partire da un input superiore che è squisitamente politico. Se l'esito dell'input del direttorio franco-tedesco è stato quello di fare uno stress test assolutamente istantaneo, fotografando alla data del 30 settembre il prezzo di mercato delle posizioni in titoli sovrani che le banche avevano in portafoglio, e questo chiaramente al 30 settembre fotografa una situazione in cui l'Italia è massimamente penalizzata e la Francia lo è assai meno, eppure noi sappiamo che le banche francesi hanno fior di problemi di varia natura, anche di capitalizzazione, non di liquidità, e anche potenzialmente ci sono anche dei problemi di solvibilità. Allora è evidente che a me viene da pensare, forse facendo un po' di dietrologia, che l'Italia è stata penalizzata probabilmente per la propria assoluta inconsistenza politica, ma questa penalizzazione, e ci può anche stare per carità, perché, ma questa penalizzazione è anche molto miope, perché quando un sistema bancario come quello italiano si trova a dover vendere in emergenza delle posizioni in eccedenza del proprio attivo su titoli di Stato, distrugge in assenza di compratori sul mercato, cosa che si è già verificata ieri, qui abbiamo la più classica delle profezie che si autoavverano e quindi mandiamo tutto all'aria. Non solo, le banche italiane rischiano un credit crunch, cioè se non riusciranno a trovare prezzi decenti per liberarsi dei titoli di Stato, o li faranno scadere non rinnovandoli, se li fanno scadere non rinnovandoli è un problema gravissimo per il tesoro italiano, ma se li tengono in portafoglio e vanno a compensare chiedendo il rientro degli affidamenti alle imprese, signori, qui siamo di fronte ad un credit crunch terrificante. E vorrei dire una cosa, Oscar, se mi permetti rapidamente. Chi parla di un rischio di inflazione, da monetizzazione, eccetera, dovrebbe anche cercare di avere presente la differenza che c'è tra la base monetaria e l'offerta di moneta, e andare a guardarsi riguardo, nel senso che la base monetaria può anche aumentare, ma se i canali, le tubazioni, le tubature del sistema idraulico non trasmettono, l'offerta di moneta non cresce abbastanza. In questo momento noi abbiamo tutti gli aggregati monetari europei aggregati, ma anche dei singoli paesi, come ad esempio quello italiano, in termini reali, M1 ed M2, che stanno manifestando una crescita reale negativa. Questo a casa mia, e non solo a casa mia, si chiama credit crunch, per cui va bene punire l'Italia che non ha fatto i compiti a casa, ma ricordiamoci che se cade l'Italia probabilmente anche la virtuosissima Germania avrebbe dei serissimi problemi. Ecco, io mi dispiace se a casa magari un po' di disprovvisti, di fondamentali, pensano che stiamo parlando di cose troppo tecniche, però guardate, questo punto, gli effetti del canale credito crescita economia reale, è uno dei punti fondamentali, e anche secondo me le decisioni assunte sono decisioni che non riesco a capire da questo punto di vista. Una domanda per Tobias Piller. Il G20 è in arrivo, al G20 americani e cinesi hanno motivi per essere ancora più arrabbiati di quanto capita ormai da 3 mesi a questa parte, rispetto ai ritardi, le divisioni, le incongruenze dell'Europa, che è diventata, no, il contagio, il rilancio della crisi finanziaria, anche se i problemi del debito pubblico federale americano non sono da ridere. Rispetto a questo, cioè rispetto a gli Stati Uniti e i paesi leader della crescita, emersi, non emergenti, che protestano e additano però le responsabilità anche dell'euro leader, della Germania. In Germania l'opinione pubblica, i grandi giornali, la banca, la finanza, che cosa pensano del fatto di essere finiti, non per propria mancanza di virtù, ma come leader di questa euroarea sul banco degli accusati? Sì, ma mettiamo le cose un pochino in prospettiva. Certamente si può avere anche una sessione di G20 dove tutti accusano tutti, così in primis l'Europa, gli americani, gli anglosassoni, se loro vogliono di fare dei bilanci e di fare delle bolle speculative che poi creano all'inizio di crisi finanziarie. Ma il punto in prospettiva, guardando in avanti, è quello che l'Europa deve essere non l'Europa dei forti, ma l'Europa dei responsabili. E in questo caso le cose rientrano anche velocemente, o possono rientrare velocemente. In questo un grande ruolo ce l'ha l'Italia, perché senza una prospettiva di crisi dell'Italia la Grecia sarà un caso circoscritto. E mi ricordo che anche il governatore, o adesso presidente della BCE, Draghi, ha detto che bisogna creare dei meccanismi come nel mondo bancario, che fanno così che quando crolla uno Stato abbia davanti a sé una procedura di fallimento ordinato, un tavolo con i creditori e tutte queste cose lì, e che faccia così che può crollare un singolo paese senza portare tutto il resto al baratro. In questo senso certamente questo crea più responsabilità per ognuno di gestire le cose proprie e meno possibilità di ricatto di un paese verso tutti gli altri per dire così io sto in difficoltà, voi pagate, altrimenti va tutto giù. Infine bisogna ricordare lì anche ci sono stati dei principi eroici sulla stabilità della moneta unica, ai quali ancora aderisco, perché noi tutti volevamo una moneta forte nel mondo e bisogna così stare con questi principi. Nel mondo reale adesso la Merkel e il governo tedesco contro così il sentimento del popolo tedesco è già venuto incontro tante volte ammorbidendo questi principi e tornandoci sopra e così creando delle possibilità che vanno proprio contro questi principi solo per trovare delle soluzioni pragmatici. Io trovo in quel senso poco generoso dire ancora ci vuole di più, no? Ci vuole adesso prima di tutto responsabilità. Ci vuole responsabilità e magari meno attenzione alle elezioni a breve, perché questo anche in Germania non è che abbia pesato poco. Dei demeriti del governo italiano abbiamo parlato e continueremo a parlare. Chiedo a Salvatore Bragantini, è fondata o meno l'opinione degli osservatori stranieri che dicono che però in Italia la distanza tra ciò che andrebbe fatto e ciò che viene richiesto dai mercati dell'Italia e ciò che davvero si è disposti a fare nella politica riguarda anche l'opposizione, cioè temi come l'azzeramento dell'anzianità, come le dismissioni pubbliche, come un riequilibrio senza scassare i conti, ma anzi in coerenza a migliorarli pure del cuneo fiscale per crescere di più, dicono l'opposizione su questo non c'è, ma hanno torto a pensarlo. Guardi, io penso che abbiano ragione a bocce ferme. Penso però che l'opposizione sia disposta davanti a un nettissimo cambiamento del quadro politico, quindi diciamo pure a un governo straordinario di unità nazionale, a fare la propria parte. Io penso che l'Italia sia un paese solvente e solvibile. Stiamo lasciando che la situazione impazzisca quando la situazione di base non lo richiede. L'Italia è un paese solvente e solvibile. La BCE dovrà decidere se accettare i titoli o no dei vari paesi, accetterà i titoli dei paesi solvibili e non di quelli non solvibili. Certo, se io sul mio debito pago il 4% è un conto, se pago l'8% prima ero solvibile, poi non sono più solvibile, ma se dovesse pagare il 15% anche la Francia non è solvibile. Esattamente, allora io su questa conclusione, siamo solvibili, non siamo la Grecia, siamo il secondo paese per valore aggiunto manifatturiero dell'euroarea, concludo anch'io, la politica deve essere capace di credibilità, le agenzie ci dicono che a Palazzo Chigi c'è in corso un nuovo vertice di coordinamento con il ministro Romani e il presidente del Consiglio Calderoli, si lavora a misure, sono passati settimane e mesi, naturalmente gli italiani continuano a pensarla diversamente sulla politica, ma la politica non è stata all'altezza di quello che i mercati ci chiedevano, questo è un fatto, potete pensarla come volete. Linea Generale Radio, appuntamento a domani e grazie ai nostri ospiti.